la presidenza del Consiglio dei Ministri. Ne abbiamo avuta una, la 3978 dell'8 novembre 2011, in cui all'articolo 10 questa ordinanza dice che per favorire la ripresa delle attività di sostegno alle donne e alle madri in difficoltà si provvede a ristrutturare edifici colpiti dal sisma che venivano utilizzati quali centri antiviolenza o comunque anche per realizzarne di nuovi, avvalendosi delle diocesi, in primis la diocesi dell'Aquila, subito dopo di altre diocesi abruzzesi, con una attribuzione di 1,5 milioni di euro. Ma in tutto ciò le donne che prima gestivano i consultori e i centri antiviolenza non sono state contattate? No, io stessa sono la legale del centro antiviolenza per le donne dell'Aquila. Siamo centro antiviolenza che ha ripreso con estrema difficoltà la sua attività veramente subito, immediatamente dopo il 6 aprile, sostenendo e continuando a fornire servizi alle donne nonostante tutto. Siamo quelle che da sole e grazie esclusivamente alla straordinaria solidarietà e generosità dei gruppi di donne in tutta Italia e anche di donne di altri paesi europei hanno potuto riaprire una sede. Abbiamo veramente, siamo state inondate da una solidarietà di tipo concreto, economico straordinario, e così abbiamo potuto garantire tutti i servizi. Sapevamo che c'era una dotazione di 3 milioni di euro dell'allora ministra Carfagna, che all'indomani del terremoto ebbe a dire che avrebbe destinato 3 milioni di euro per ristrutturare gli edifici adibiti a centri antiviolenza danneggiati dal sisma, e questo vuol dire l'Aquila, perché il centro antiviolenza dell'Aquila è l'unico danneggiato dal sisma, in quanto purtroppo sono costretta a ripeterlo, il terremoto è stato il terremoto all'Aquila e non un terremoto diffuso in una regione. Bene, questi 3 milioni sono spariti dal 2009, se ne parlò, noi chiedemmo conferma dell'esistenza di questa dotazione, non ne abbiamo saputo più niente. Ricompaiono frazionati in questa ordinanza, perché 1,5 milioni verrebbero dati alle diocesi, oscurando completamente il lavoro e il diritto delle donne ad avere assistenza in centri dove possano avere personale esclusivamente femminile, preparato a quello e secondo un percorso, una logica di accoglienza che sia storicamente sia politicamente affonda le radici nel pensiero proprio della differenza e del contrasto alla violenza di genere. Quindi oscurando decenni di lavoro delle donne, si riconsegna alle diocesi un potere economico ma anche culturale e politico di questo tipo, quindi è di una gravità, è l'ennesima violenza alle donne, noi così l'abbiamo definita quando ci siamo cominciate a mobilitare. E al secondo comma di questo articolo si stabilisce che l'altro 1,5 milioni sarebbe destinato alla creazione di un fantomatico centro poliedrico per le donne, e non si capisce dove, non si capisce gestito da chi, rinviando semplicemente alla consigliera di parità per delle indicazioni, orientamenti di massima. Ora, il senso di un'ordinanza del genere è evidente, le conseguenze sarebbero gravissime e noi ci stiamo opponendo in tutti i modi per scongiurare ipotesi di questo tipo. La cosa drammatica qual è? Che l'ordinanza, in quanto atto che viene emanato in seguito alla dichiarazione di uno stato di emergenza, è un atto quasi praticamente inopponibile. Non ci sono sedi precostituite in cui si può opporre un'ordinanza del genere. Noi certamente andremo avanti e cercheremo tutti i modi per contrastare la realizzazione, la concreta applicazione di questi contenuti, però insomma siamo seriamente preoccupate, e a questo proposito abbiamo lanciato anche un appello a livello nazionale, approfitto della disponibilità della vostra emittente proprio per renderlo ancora più noto. un appello che stiamo facendo circolare a tutti i gruppi di donne in Italia affinché inondino con questo testo che noi abbiamo predisposto, inondino il commissario Chiodi, che è il governatore dell'Abruzzo delegato dal governo, a un indirizzo mail che in questo momento non ho ma che potrò far avere, affinché sia reso noto che in tutta Italia ancora una volta le donne stanno sostenendo altre donne per una battaglia che oggi è la nostra, ma potrebbe aprire anche, come dire, potrebbe far venire questa idea anche ad altri in altre regioni, visto che i centri antiviolenza negli anni sono stati sempre meno finanziati e non godono certo né di appoggio né di priorità nelle agende politiche dei vari governanti. Se ricordiamo che il primo atto che fece la ministra Carfagna quando arrivò al governo è stato quello di tagliare i fondi per i centri antiviolenza e soprattutto di inserire obiettori e personaggi e personaggi del movimento della vita all'interno dei consultori. Questa è stata la prima cosa che lei ha fatto. Ed era abbastanza agghiacciante. Anche qui a Roma, per esempio, dopo sentiremo altre compagne, ci sono dei consultori di centri di antiviolenza che rischiano di chiudere perché li vogliono accorpare dentro stanze più piccole per risparmiare la corrente, la luce, quindi diciamo che non c'è assolutamente attenzione in questo. E tra l'altro tutto questo attacco arriva in contemporanea alla creazione qui a Roma un mese fa, ti dicevo prima al telefono quando parlavamo in privato, che un mese fa è stato inaugurato il cimitero dei bambini non nati, e so che anche da voi nel 91 avevano inaugurato il movimento al bambino mai nato, quindi diciamo si inserisce in un quadro che è perfettamente chiaro. Sì, esattamente, nel 91 L'Aquila fu teatro purtroppo di questa manifestazione vergognosa che culminò nella rappresentazione simbolica e concreta del monumento al bambino mai nato presso il cimitero. E in quell'occasione ci fu una mobilitazione straordinaria di donne che invasero la città. E a distanza di anni stiamo nello stesso solco, combattiamo contro lo stesso tipo di aggressione ai corpi e all'autodeterminazione delle donne, e oggi a causa di un terremoto ci vediamo imporre decisioni da un governo centrale su una realtà locale già così provata e così lacerata, no, da decisioni prese e calate dall'alto, e addirittura con attribuzione alle diocesi di un potere, ripeto, economico e di intervento sulla vita delle donne, che è a dir poco vergognoso e criminale. Ecco perché ci stiamo mobilitando e speriamo di poter condividere anche questa ennesima battaglia che siamo costretti a condurre per cercare di resistere, insomma, in questa città ai vari attacchi che si susseguono. Noi vi facciamo ovviamente i nostri migliori auguri e cercheremo in tutti i modi di sostenervi. E vuoi lasciarci qualche contatto per le donne che magari vogliono parlare con voi, non so, al sito anche del centro? Allora, noi abbiamo un indirizzo intanto un indirizzo a cui si può scrivere per avere l'appello integrale con la richiesta che noi facciamo, che è l'aquiladonne@gmail.com. Mm-hmm. E poi abbiamo il sito, che è proprio terremutate.it. Perfetto. E dal sito si possono trarre comunque i testi integrali sia dell'appello generale che noi abbiamo utilizzato per avviare la campagna all'Aquila, sia dell'appello più sintetico che chiediamo a tutte le donne di voler inviare a titolo personale presso le segreterie del commissario Chiodi, e troveranno all'interno anche gli indirizzi, i numeri di fax, tutti i riferimenti. Va bene, allora a questo punto noi ti ringraziamo per essere intervenuta e manteniamoci ovviamente in contatto, e appena ci sono qualche novità ci chiami, o comunque vi chiameremo noi anche per sapere come prosegue. Va bene, grazie, ciao, buonasera. Grazie a te. Ciao.